Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ha iniziato il suo intervento dicendo: caro Presidente, lei ha parlato del nulla. L'onorevole Brunetta ha iniziato il suo intervento dicendo: caro Presidente, lei ha parlato del nulla. No, non stavo parlando di lei, Presidente Brunetta. Stavo cercando di affrontare un tema, colleghi, di discussione un pochino... Colleghi, per favore... E questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, come avete sentito, come sentite questi giorni, è il tenore del dibattito sempre più acceso e divisivo sul referendum tra il fronte del sì e il fronte del no. Renzi che attaccava Brunetta, che l'ha attaccato a sua volta, e poi c'è Massimo D'Alema che oggi ha detto che il fronte del sì... il fronte del sì è minaccioso e sta con i poteri forti. Allora, facciamo che per oggi, a parte tra poco nel riassunto della giornata ne parliamo brevemente, per una giornata qui a Fettonotte ci riposiamo rispetto al referendum e alla politica italiana, e invece tratteremo fra i vari approfondimenti anche questa vicenda che viene dalla Gran Bretagna, discriminatoria nei confronti dei studenti italiani, perché in alcune scuole hanno distribuito un questionario per la missione alle scuole, agli studenti italiani, chiedendo di precisare se erano italiani DOC, italiani d'altro tipo, oppure napoletani o siciliani. Ne parleremo perché è una polemica che si è accesa e soprattutto sui media regionali adesso, giustamente, insomma, ci sono vari attacchi e critiche, anche se poi il Ministero degli Esteri inglese ha chiesto scusa. Poi parleremo di una bella iniziativa che riguarda la Sardegna, molti altri temi, i vostri messaggi, la vostra interazione può avvenire come sempre attraverso due canali privilegiati che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666 349-238-6666. Ma prima di tutto, come sempre, sentiamo che giornata è stata. La riforma costituzionale, si accende la campagna referendaria, Massimo D'Alema torna all'attacco e dice: il fronte del sì è minaccioso e sta coi poteri forti. L'accusa di Renzi all'Unione Europea, il suo è frenetico immobilismo, dice il Presidente del Consiglio, dopo il vertice di Bratislava sui migranti ha dato poco più di niente. Olimpiadi, la sindaca Raggi contro Renzi e Malagò, straparlano, dice, sono degli irresponsabili, noi e i bambini abbiamo tolto il peso di nuovi debiti di Roma 2024. Tensione tra Russia e Stati Uniti, accuse incrociate di voler condizionare la stabilità interna. Obama valuta una risposta proporzionale alle presunte interferenze russe sul voto americano tramite hackeraggi. Putin parla di isteria attorno agli hackeraggi per distrarre il pubblico. Studenti italiani, Londra si scusa e cambia i questionari scolastici discriminatori parlando di errore amministrativo. Buona scuola, il referendum non si farà, non è stata raggiunta la soglia delle 500.000 firme. Ricorso Mediaset contro Vivendi, chiesto il sequestro del 3,5% delle azioni. Vesuvio, il piano d'emergenza entro ottobre riguarderà 672.000 persone. Regione Sardegna stop al linguaggio sessista negli atti ufficiali, arrivano sindaca, assessora, prefetta. Moda, Cavalli Italia 200 posti, chiude gli uffici di Milano, via quasi un terzo dei dipendenti del gruppo. E partiamo quindi dal sempre più acceso scontro sul referendum costituzionale, come dicevamo all'inizio, con l'ex premier D'Alema che attacca il governo. Non esiste uno schieramento politico del no, mentre esiste un blocco politico governativo del sì sostenuto dai poteri forti. Massimo D'Alema torna ad accendere con queste parole la campagna elettorale del referendum dopo il timido riavvicinamento tra Renzi e la minoranza Dem sull'Italicum. D'Alema parla di un fronte del no, di uno schieramento minaccioso da cui capita di subire insulti. A dare del bugiardo a Renzi, intanto, da Forza Italia Brunetta, intervenuto in aula alla Camera nel dibattito sul Consiglio europeo. L'azzardo morale è la malattia mortale, è quello di non mantenere la parola, imbrogliare in altri termini. Questo l'hanno capito gli italiani e lo capiranno i cittadini italiani il 4 di dicembre. Bugie quindi sui risparmi che arriveranno dalle riforme, secondo Grillo. Di Battista, 5 Stelle, sempre alla Camera, aggiunge: con l'Italicum il 70% di questa Camera verrà nominata dai partiti politici e con il Senato di queste autonomie il 100% dei consiglieri regionali verrà scelto dai partiti. Della necessità di rispetto reciproco parla il Presidente della Repubblica Mattarella, servirà soprattutto dopo il risultato del referendum, spiega il capo dello Stato. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito di tensioni politiche, la sindaca di Roma Virginia Raggi, dopo nuove parole di biasimo nei suoi confronti per la mancata candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024, attacca su Facebook il presidente del Consiglio Renzi e il presidente del CONI Malagò. Dice ai bambini: abbiamo tolto il peso di ulteriori debiti che una classe politica irresponsabile intendeva addossargli per realizzare a Roma le Olimpiadi del mattone. Lo dico a Renzi e Malagò, scrive Virginia Raggi su Facebook, che in coppia da giorni continuano a straparlare dei giochi per distogliere l'attenzione dai problemi concreti dei cittadini. Dunque, archiviata la candidatura olimpica di Roma, da governo e CONI arriva il progetto Sport e Periferie, presentato oggi, ma la polemica a cinque cerchi, come avete sentito, non si spegne. Nell'aria c'è ancora l'odore acre del fuoco di Marca Pentastellata che ha affossato la candidatura olimpica di Roma 2024, ma governo e CONI provano a voltare pagina col varo del progetto Sport e Periferie. Attuazione, il progetto di fondi governativi stanziati quando la battaglia sulla Roma olimpica non era ancora scoppiata. 100 milioni di euro per progetti in realtà diffusi in tutta Italia. 1.681 le richieste, 183 gli interventi approvati, con un'attenzione particolare al sud, 34 in Calabria, 22 in Sicilia e 19 in Campania. 480.000 euro saranno destinati a ricostruire gli impianti di Amatrice e Accumoli, vittime del terribile terremoto del 24 agosto. Un solo intervento invece previsto proprio a Roma. E alla sindaca Raggi, che ora batte cassa, il premier Renzi riserva una velenosa stoccata. Quanto alla richiesta della sindaca di avere i denari per le Olimpiadi senza le Olimpiadi, mi sembra una tesi suggestiva, intrigante, la girerò a Bach. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo ancora a Roma per l'inchiesta sull'assessora all'ambiente Paola Muraro. Potrebbe chiudersi con il pagamento di un'ammenda l'inchiesta sui rifiuti a carico dell'assessore all'ambiente del Comune di Roma, Paola Muraro. L'indagine della Procura, secondo indiscrezioni pubblicate da alcuni quotidiani, è alle battute finali e nei prossimi giorni i magistrati di Piazzale Clodio dovrebbero inviare a Muraro un invito a comparire con la fissazione della data dell'interrogatorio per poi chiudere l'indagine. Accusata di reati ambientali, Muraro potrebbe uscire dall'inchiesta con un'archiviazione per il reato di abuso di ufficio. In tal caso, l'assessore all'ambiente della Giunta Raggi rischierebbe solo una multa e la citazione diretta a giudizio. I reati ambientali contestati a Muraro, infatti, possono essere oblati pagando una multa che va da 2.600 a 26.000 euro. Ho bisogno di serenità, replica Muraro ai cronisti uscendo dal Campidoglio al termine della giunta e, interpellata sull'ipotesi di archiviazione per l'accusa di abuso di ufficio, scuote la testa a significare no comment. Al momento, spiega l'avvocato dell'assessore, Alessio Palladino, non abbiamo ricevuto alcun tipo di comunicazione da parte della Procura, men che meno avvisi a comparire, e ribadisce la massima disponibilità verso gli inquirenti che stanno svolgendo un lavoro meticoloso, anche, ricorda, su documenti messi a disposizione da Paola Muraro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso le accuse di Renzi all'Unione Europea. Un'Europa senza ambizione, un'Europa che rischia di non essere all'altezza delle sfide, vittima di un frenetico immobilismo, dice Renzi dinanzi alle Camere, citando anche il filosofo tedesco Habermas, una sferzata al vecchio continente dopo le aspettative deluse del vertice di Bratislava e in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre a Bruxelles. Abbiamo dovuto registrare come questo frenetico immobilismo portasse poco più che a niente. Un documento molto banale. Durissimo Renzi sull'immigrazione nei confronti di quei paesi che, dice, cercano di smarcarsi dai loro impegni. Non lo permetteremo, ma anche convinto della necessità di tenere fuori dal patto di stabilità le spese per la ricostruzione del sisma. Secondo voi un paese come il nostro, che in 7 anni ha vissuto 3 terremoti, può permettersi di soggiacere a regole burocratiche per non guardare alle esigenze dei propri concittadini? È inaccettabile anche soltanto che qualcuno lo pensi. Renzi rivendica infine i risultati sui conti pubblici. L'Italia è il paese con la rotta di discesa del deficit più significativa. Spesso, invece, i giudizi di Bruxelles in Italia suscitano, dice, inutili psicodrammi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Le notizie dall'estero: gelo tra Russia e Stati Uniti, non c'è dialogo, afferma Putin, negando ogni responsabilità sui presunti hackeraggi per condizionare le presidenziali americane. La Casa Bianca però non arretra e avverte: ci sarà una risposta proporzionale. La Russia è preoccupata per il deterioramento dei legami con gli Stati Uniti, ma non si tratta di una scelta nostra. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, aggiungendo che il dialogo con gli USA praticamente non c'è. Trump e Clinton non possono sfruttare la Russia per vincere le elezioni, ha tuonato poi il presidente russo, ribadendo che il suo governo non è responsabile degli attacchi informatici subiti dal Partito Democratico statunitense. A far di eco il ministro degli esteri russo Lavrov, secondo il quale le accuse a Mosca di interferire nelle elezioni USA sono ridicole. Nessun passo indietro però da Washington, che attraverso il portavoce della Casa Bianca fa fa sapere che Barack Obama ora sta valutando una risposta proporzionale alle presunte interferenze russe sul voto USA. E mentre il gelo sale anche tra Russia e Francia, accusata da Mosca di non aver rispettato le promesse sulla Siria, uno spiraglio diplomatico si apre con la notizia che Russia e USA terranno colloqui a livello ministeriale sulla Siria a Losanna il 15 ottobre. Parteciperanno Iran, Turchia, Arabia Saudita e forse Qatar. Lo comunica il Ministero degli Esteri russo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra l'altro c'è un'agenzia di pochi istanti fa, sempre su questo argomento, con la Casa Bianca che resta dell'avviso che l'azione di hackeraggio dalla Russia è volta a destabilizzare il sistema politico degli Stati Uniti. Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca, John Hinst. Passiamo alla Siria, e di almeno 15 civili uccisi il bilancio provvisorio di un bombardamento aereo su Aleppo Est, la zona della città assediata, controllata dagli insorti antigovernativi. Secondo fonti locali, ad essere colpito dai raid aerei russi e governativi siriani è stato un mercato ortofrutticolo. Ci sono notizie, forse, sui due italiani sequestrati in Libia. Sarebbero nelle mani di un gruppo algerino legato ad Al-Qaeda nel Maghreb islamico, che avrebbe anche chiesto un riscatto di 4 milioni di euro. Sentiamo Alberto Nighi. Dopo settimane di silenzio, improvvisamente riemergono dalle sabbie del deserto libico notizie sui due connazionali rapiti a Gatti il 20 settembre scorso, Bruno Cacace e Danilo Calonego. E le notizie fornite dai servizi di Algeri sono così dettagliate da sollevare persino qualche sospetto. Sappiamo chi sono i rapitori. Un gruppo di qaedisti autonomo costituito da algerini e libici guidati da Abdellah Belakalal, che ha richiesto un riscatto di 4 milioni di euro, altrimenti i sequestratori minacciano di consegnare gli ostaggi a una cellula di Hakim o dell'ISIS. Il gruppo avrebbe chiesto, oltre al riscatto, anche il rilascio di due detenuti, tra cui proprio il fratello di Belakalal, che è in carcere per traffico d'armi. Secondo fonti locali, i negoziati sono condotti da tribù libiche locali di Tuareg e Tebu. Sono i mediatori. Mediatori o intermediari? Questo è il vero sospetto che accompagna un rapimento che speriamo si concluda con la liberazione dei due italiani sani e salvi. Abbiamo argomento con la possibile mossa della Fed, della Banca Centrale Americana. Un nuovo rialzo dei tassi di interesse avverrà relativamente presto. Questo è il piano dei vertici della Fed, secondo quanto emerge dalle minute del bozza della riunione di settembre. Ancora ci sono forti divisioni sulla tempistica della nuova stretta monetaria. E arriviamo così al tema degli studenti italiani e la Gran Bretagna marcia indietro di Londra sui moduli discriminatori verso gli studenti italiani nel Regno Unito, che contenevano questi moduli dei riferimenti sull'origine degli italiani, napoletani o siciliani. Scuse del Foreign Office, del Ministero degli Esteri britannico, ristampa quindi del questionario da parte del Ministero dell'Istruzione, che spiega è stato un errore amministrativo. Ma certo si è trattata questa di una pessima scivolata, non è stata l'unica negli ultimi tempi, nei tempi recenti, quindi torneremo a parlarne tra poco qui effetto notte. Restiamo sul tema della scuola, ma in Italia il referendum per abrogare parte della riforma buona scuola non si farà. Sono troppo poche, inferiori a 500.000, le firme valide presentate alla Cassazione dal comitato che voleva un referendum sulla legge 107, la cosiddetta buona scuola. L'esame della Corte ha stralciato oltre 30.000 firme, portando il conto finale al di sotto del limite minimo per indire una consultazione popolare. Il comitato referendario ha espresso comunque la propria soddisfazione per quella che ha definito un'esperienza straordinaria di confronto con i cittadini che hanno voluto manifestare la propria contrarietà ai contenuti della legge. I quattro quesiti proposti miravano in particolare ad abrogare le detrazioni per chi dona a scuole statali o paritarie, la chiamata diretta degli insegnanti, il sistema di alternanza scuola-lavoro e i bonus premio per i docenti. Daniele Zinni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Sardegna, che dice stop al linguaggio sessista, da oggi nella comunicazione istituzionale sarà obbligatorio il linguaggio di genere. Ne parleremo qui effetto notte più tardi. E poi una notizia che riguarda il mondo del cinema: Francesco Rutelli è stato designato presidente dell'ANICA, lo ha deciso la giunta dell'Associazione Nazionale delle Industrie Cinematografiche Audiovisive. Dalla moda invece non una buona notizia: dopo l'annuncio della fine della collaborazione con lo stilista Peter Dundas, la Griff fiorentina Roberto Cavalli annuncia un piano di riorganizzazione aziendale che coinvolge dipendenti e uffici. Il progetto prevede una riduzione dell'organico a livello mondo di circa 200 dei 672 dipendenti complessivi, così si legge in una nota diffusa oggi. La riorganizzazione prevede anche la chiusura della sede e dell'ufficio stile di Milano, col trasferimento di tutte le funzioni a Osmannoro vicino Firenze. Per chiudere, citiamo una benefattrice per Haiti, visto quello che è successo a Haiti, visto che questo paese non riesce a risollevarsi. Shakira, la famosa cantante colombiana, dona $15 milioni per le vittime dell'uragano Matthew. Secondo le stime, al momento sono stati registrati 473 morti, 75 dispersi, 339 feriti e più di 175.000 sfollati. La cantante, che attualmente non ha commentato la donazione riportata dai media locali, ha elargito la cifra attraverso la sua fondazione Pies Descalzos, che servirà appunto alla ricostruzione degli edifici colpiti dall'uragano. Tra l'altro, secondo i media, avrebbe dato parecchi soldi anche in occasione del terribile terremoto del 2010 ad Haiti, che aveva fatto quasi 300.000 morti. Bene, con questa buona notizia direi che abbiamo concluso il riassunto della giornata, e adesso, da dopo la viabilità, cominciamo a scendere nel cuore degli argomenti. Per le vostre osservazioni, i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure 349-238-6666 per i vostri messaggi WhatsApp. Ringrazio per i complimenti. Poi invece Luca da Napoli dice: l'unità d'Italia è stata per noi una fregatura, fino al 1861 eravamo lo stato più ricco e progredito, poi con l'annessione siamo diventati colonia. Ma non ho capito che stato eravamo nel 1861, se poi siamo stati annessi, diventati colonie. Sono quali pezzi c'entrano e non c'entrano, Luca da Napoli, però mi pare che qui sei un po' d'accordo evidentemente con questa diciamo visione un po' preunitaria della Gran Bretagna. Poi ne parleremo. E poi invece c'è questo ascoltatore che dice: Gianni da Bologna, come siamo caduti in basso. Mi pare di aver visto questo messaggio nel momento in cui si parlava delle polemiche, del dibattito sempre più acceso sul referendum. Ci sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccomi insieme a voi, Roberta Giordano, con i vostri messaggi. Stavo guardando sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666 in attesa di collegarci con il primo ospite tra poco. E vi ricordo anche quali sono le notizie più importanti se non avete acceso puntualmente alle 21. Intanto, dicevo, i vostri messaggi. Dice un ascoltatore: il referendum è un ritorno al Medioevo. Non so se è il dibattito che è un ritorno al Medioevo oppure è nel merito, dice questo ascoltatore o ascoltatrice. Sulla pagina, sul numero per i messaggi, che è il 349-238-6666, WhatsApp ed SMS, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Poi invece, per quanto riguarda anche le Olimpiadi di Roma, dice Alessandro: Renzi e Malagò continuano a parlare delle Olimpiadi mancate per non essere costretti a rispondere della differenza sulla gestione capitolina prima e dopo Virginia Raggi. Se veramente volessero le Olimpiadi, potrebbero candidare un'altra città qualsiasi. Roma non ha attualmente le strutture, ma in realtà a questo punto mi pare un po' tardi, al di là che si sia d'accordo o no con la scelta della sindaca Raggi, non credo che si possa candidare un'altra città. Alessio dice: tirare in ballo i bambini per attaccare una decisione sacrosanta è veramente patetico. Renzi, sei alla frutta. Ma in veramente no, è Virginia Raggi che su Facebook ha scritto: noi abbiamo evitato ai bambini, al nostro futuro, insomma, di sobbarcarsi un enorme debito. Cesare dice: ha ragione da vendere Raggi. E così Danilo dice: è vero. Enzo scrive: una visione miope di chiusura, comunque l'Olimpiade è una cosa temporanea. Sono invece molto preoccupato se questo pensiero si trasferisce alla TAV. Bloccare la Torino-Lione sarebbe un disastro. E poi invece altri messaggi su altre questioni, per esempio sulla politica. Ancora chi dice che questo referendum sta creando più confusione che informazioni. Insomma, tanti messaggi. Intanto però vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. Appunto, sul dibattito del referendum, D'Alema dice: il fronte del sì è minaccioso e sta coi poteri forti. La minoranza PD intanto apre sull'Italicum e il presidente della Repubblica Mattarella dice: serve un rispetto reciproco. Alta tensione tra Stati Uniti e Russia. Obama dice: risponderemo agli hacker che stanno cercando di influenzare le nostre presidenziali. Putin risponde: il presidente russo, sono isterici, con gli Stati Uniti non c'è ormai più dialogo. E poi studenti italiani: Londra si scusa e cambia i moduli, che parlavano di italiani doc o italiani napoletani o siciliani. E poi c'è l'attacco di Renzi all'Europa, che dice di un frenetico immobilismo. Ricorso di Mediaset contro Vivendi, sequestrate 3,5% di azioni. Sequestrare la richiesta, questo è il nuovo atto, questo della guerra su Premium. E poi Roma, no all'abuso d'ufficio. Per quanto riguarda l'assessora Muraro, si va verso il no all'abuso d'ufficio. Muraro rischia solo una multa. E poi sulle Olimpiadi del 2024, nuovo botta e risposta. tra Renzi e il Campidoglio. Piano d'emergenza per il Vesuvio, 700.000 persone da evacuare in 25 minuti, lo annunciano il governatore De Luca e il capo della protezione civile Curcio. Pronto questo piano entro ottobre, ci sono 4 livelli d'allerta e poi la Sardegna che dice stop al linguaggio sessista negli atti ufficiali. Allora, cominciamo con il primo argomento. Stavamo parlando appunto di questa vicenda che arriva dalla Gran Bretagna e che è stata così, insomma, dal punto di vista di stampo linguistico discriminatoria, potremmo definirla. Adesso invece parliamo di un'iniziativa della regione Sardegna, che è partita da un'iniziativa di una consigliera regionale, che va nella direzione opposta, relativa a quella che è la prima discriminazione di base tra gli esseri umani, che è quella tra uomini e donne. In tutti gli atti ufficiali della regione Sardegna si userà il linguaggio di genere, quindi si comincerà a usare sindaca, assessora, commissaria, prefetta, direttrice, consigliere, eccetera. È una delle novità della legge sulla semplificazione approvata dal Consiglio regionale della Sardegna. Stiamo per raggiungere la consigliera regionale che ha promosso questa iniziativa. Intanto vorrei farvi sentire uno dei tanti interventi che la Presidente della Camera Boldrini ha fatto su questo tema. Io penso che se va bene contadina, se va bene operaia, se va bene infermiera e dunque accettiamo la declinazione al femminile di una occupazione, deve poter andare bene anche quando si tratta di amministratrice delegata, di quando si tratta di sindaca, quando si tratta di ministra. Perché? Perché l'Accademia della Crusca, che è la più importante istituzione linguistica del nostro paese, ci dice che non farlo è un errore grammaticale. Ogni ruolo va declinato al maschile e al femminile. E così intende fare anche la Sardegna dopo varie altre regioni che l'hanno fatto, ma chiedo a Claudio Marazzini, che saluto, presidente dell'Accademia della Crusca. Buonasera Marazzini. Buonasera. Buonasera professore. Io devo dire, li uso i termini declinati al femminile o al maschile da anni. Io ho fatto una parte della mia tesi di laurea su questo argomento, quindi lo dico da anni e sono stata spesso presa in giro. Adesso si comincia un po' a cambiare, no? Su questo, a capire l'importanza che è di sostanza, non è soltanto così di apparenza, perché se il pensiero condiziona il linguaggio condiziona il pensiero. Cosa dice il professor Marazzini? Sì, dunque, intanto io non ho letto la legge della regione Sardegna, ho visto quello che ne riporta il nome. Sì, dovremmo raggiungere la consigliera, ma ecco, credo che abbia dei problemi adesso il telefono. Da quello che ho capito, che c'è una sorta di dichiarazione di principio a cui, se ho capito bene, no, dovrebbe seguire poi un prontuario, una normativa più precisa, no? Probabilmente c'è forse un'attenzione anche eccessiva, se è così, sulla dichiarazione di principio, perché francamente credo che una parola come sindaca o ministra siano entrate talmente nell'uso che non dovrebbero suscitare una particolare emozione, no? Entrate nell'uso, noti bene, non attraverso delle normative. Io devo dire che sono sempre un po' perplesso dall'imposizione per legge. Ecco, in fondo la stabilizzazione della parola sindaca è venuta nel momento in cui due sindache molto importanti, di due grandi capitale, città hanno attirato talmente l'attenzione, mostrando tra l'altro un'evidente femminilità, che nessuno più ha avuto problemi a dire la parola sindaca, no? Giustamente però, professor Marazzini, come ha notato anche la Presidente della Camera Boldrini, non si capisce perché contadina si può dire, maestra si può dire, quando si sale un po' di grado nelle professioni improvvisamente suonano cacofoniche queste. Sì, lo so, io ne ho avuto occasione di discorrere anche con la Presidente Boldrini, che ha delle buone ragioni tra l'altro per essere infastidita da alcuni che negano in maniera determinata i titoli al femminile, a tal punto che si sente, me l'ha detto lei stessa, che si permette di chiamarla signor Presidente in aula, no? È una cosa che giustamente le dà molto fastidio, è veramente di una idiozia assoluta. Detto questo, non si può però radicalizzare troppo l'idea dell'errore grammaticale, no? Perché nel momento, cioè, pensi una cosa, in fondo oggi nella lingua c'è un atteggiamento di grande tolleranza verso tutto, voglio dire, c'è gente che fa errori di italiano alla radio, alla televisione, sui giornali. È un, però una, se mi permette, professor Marazzini, è una questione un po' diversa, no? Lì è magari una alfabetizzazione o una ricchezza linguistica non di quelle eccezionali, può essere, non tutti, no? Però qui invece è anche una questione di riconoscimento. Chiedo, per esempio, dovremmo averla raggiunta, ad Anna Maria Busia, consigliera regionale del Centro Democratico della Regione Sardegna. Buonasera, Busia. Buonasera a voi. Buonasera. Buonasera. Allora, stavamo parlando con il professor Marazzini, Accademia della Crusca, che diceva, forse mi sembra un po' esagerato, diceva, stabilirlo attraverso delle norme, questo di chiamare al femminile o al maschile a seconda del genere. Ah sì, mi stupisce, mi coglie impreparata, visto che i suggerimenti sono arrivati proprio da un seminario cui avevo partecipato, che riguardava, in cui c'era la professoressa Robustelli, e si parlava proprio di adeguamento del linguaggio nella pubblica amministrazione, e da lì un po', visto che c'era stata qualche esperienza anche in altre regioni, poi c'è anche quel gruppo di lavoro che è stato organizzato dalla presidenza della Camera, abbiamo pensato appunto di introdurre e di valorizzare questi aspetti anche nella riscrittura delle leggi regionali e degli atti amministrativi. Sostanzialmente la norma che è introdotta in una legge che riguarda la semplificazione della normazione regionale della Sardegna e degli atti amministrativi introduce anche il fatto che si debba adeguare il linguaggio e che il linguaggio debba essere rispettoso del genere. Quindi mi stupisce, ecco, questa cosa che è stata riferita dal professore, insomma, dell'Accademia della Crusca. Secondo lei perché è così importante utilizzare termini giusti, no? Quando si tratta di una donna, chiamarla assessore, quando si tratta di un uomo assessore, perché? Intanto perché lo dice la lingua italiana, perché mi pare che il femminile di avvocato sia avvocato e il femminile di ministro sia ministra, e quindi il rispetto passa anche per il linguaggio, per il corretto linguaggio e come dire, le parole che devono essere utilizzate. Le parole non soltanto servono a comunicare, ma evocano ovviamente pensieri, trasferiscono delle significati, idee, no? Determinano la realtà, certo, anche. Certo, certo, quindi mi pare assolutamente. Peraltro non facciamo altro che prendere atto di una situazione che mi pare si stia modificando, per esempio penso al fatto che i media, che televisione, che giornali si siano sicuramente adeguati a questa nuova flessibilità. Io lo faccio da sempre, io lo faccio veramente da molti anni, dottoressa Busia, questo lo dicevo prima. Questo mi fa piacere, sì, perché insomma, mi è stato detto, ho visto, insomma, nella sua presentazione, ma mi pare che i giornali lo stiano facendo, non si dice più sindaco Raggi, a nessuno, nessuno lo dice più, tutti dicono sindaca Raggi, penso alla sindaca più importante, insomma, della città più importante. Certo, la capitale. Quindi voglio dire, la stampa e i media si sono adeguati anche con una certa velocità, allora non capisco perché non si comprenda l'importanza che anche il linguaggio utilizzato nelle leggi e negli atti amministrativi non debba, soprattutto quando ci deve essere una riorganizzazione, un sistema di semplificazione, non debba adeguarsi allo stesso modo. Allora, voleva fare una precisione, professor Marazzini? Sì, io non ho detto che non si deve stabilire una normativa amministrativa in cui si precisa tutto questo. No, diceva che è eccessivo. Che non si può trasferire una battaglia di civiltà e di conquista di posizioni importanti per le donne in una battaglia di grammatichetta, cioè dire è un errore grammaticale. Primo, perché non è così, perché la lingua ha una sua variabilità, per cui una battaglia di civiltà non rientra in quelle regole che possono essere anche diverse, cioè chi sbaglia e chi rifiuta di dire il sindaco e la sindaca quando si tratta di una sindaca donna non fa tanto un errore grammaticale, ma non è al passo coi tempi, che è una cosa diversa. Poi, come dicevo, non è un problema di assessora, sindaca, eccetera, cioè di queste cose che sono in realtà entrate nell'uso. Quando si farà questo prontuario di cui dovrà disporre la regione Sardegna, si dovranno affrontare anche altri problemi, perché, appunto, per semplificare, per non complicare. Per esempio, prenda il caso di vice sindaca, no? Che sembra una cosa così semplice. C'è una donna che fa la vice sindaca. E oggi sta venendo fuori che se c'è un uomo che fa il vice sindaco di una donna, alcuni sostengono che dovrebbe chiamarsi vice sindaca, perché la sindaca è una donna. E questo problema dovrà essere poi anche affrontato. Ci sono tante cose da pesare, no? Professore, siamo proprio in chiusura, siccome ha parlato molto all'inizio e io devo chiudere, non riusciamo a raggiungere prima la consigliera Busia, lascio la chiusura alla consigliera. Certo. Prego. Ma intanto questo mi sembra un'ulteriore sottigliezza che forse è eccessiva. Ripeto, io credo che questa legge, che è contenuta in un più ampio dispositivo che riguarda la riorganizzazione delle norme sarde e di tutti gli atti amministrativi, quindi prevede una parte, un adeguamento, ed è contenuta appunto in un più ampio disegno. Quindi non è una legge fatta soltanto per adeguare il linguaggio amministrativo al genere. Ripeto, fa parte di un più ampio progetto, intanto. Poi, ripeto, io mi sono attenuta nella proposizione, quando ho fatto la proposta di emendamento. Che poi mi pare sia stata accolta senza bisogno di discuterla neanche. Assolutamente, soltanto una presentazione. Ripeto, mi sono attenuta a quelle che mi pare siano le evoluzioni anche di pensiero, di riflessione che ha fatto proprio l'Accademia della Crusca. Dobbiamo, chiarissimo anche il suo pensiero, dobbiamo lasciarci. Ringrazio il professor Marazzini, ringrazio Anna Maria Busia, consigliera regionale del Centro Democratico della Regione Sardegna. Grazie e buona continuazione. Noi dobbiamo lasciarci per questa breve pausa e ci risentiamo tra pochi istanti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi, vari argomenti. E adesso vi ricordo tra pochi istanti le notizie più importanti, e già ci ha raggiunti Dario Ricci, perché tra poco parleremo di un aspetto particolare del calcio e del calcio cinese. Intanto i vostri messaggi alla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure al 349-238-6666 per quanto riguarda i WhatsApp e gli SMS. Per esempio, dice un ascoltatore, ma che problema c'è a dire il vice sindaca di un uomo? Certo, come si dice vice sindaco di una donna, non si vede perché che problema ci sia a dire vice sindaca di un uomo, ma comunque non era questo il problema. Intanto le notizie più importanti, e tra poco passeremo ad un altro tema. La riforma costituzionale, si accende la campagna referendaria, Massimo D'Alema torna all'attacco e dice il fronte del sì è minaccioso e sta coi poteri forti. L'accusa di Renzi all'Unione Europea, il suo frenetico immobilismo, dice il Presidente del Consiglio dopo il vertice di Bratislava, sottolinea sui migranti ha dato poco più di niente. Olimpiadi, la sindaca Raggi contro Renzi e Malagò, straparlano, dice, sono degli irresponsabili, no ai bambini, abbiamo tolto il peso di nuovi debiti per Roma 2024. E le poi campane, tensione tra Russia campane, e Stati Uniti, accuse incrociate tra Putin e Obama. Questo è l'ospite che doveva esserci in questo momento. Sono stato evocato dalle campane. È la diretta, scusa, penso che lo strangolerò appena possibile. Intanto Dario Ricci è corso qui subito in aiuto di un argomento che dovevamo fare verso la fine della puntata, e ora avete scoperto tutto con questo telefono che suona. Dario, allora, la Cina sta comprando a piene mani dappertutto, anche nel calcio. Ieri Paolo Maldini però ha detto no grazie, lo volevano come direttore tecnico, certo, no? Certo. Perché pare non avesse grande autonomia, non avrebbe avuto grande autonomia, non lo so. Sì, quello meriterebbe altri approfondimenti, e sicuramente in tutti i convocati in questi giorni li abbiamo fatti e li faremo, no? Con Giovanni Capuano, Carlo Genta, Pierluigi Pardo. Però insomma, di fatto la Cina si avvicina, e c'è vicina in quanto a capitali, perché l'Inter è già cinese, il Milan a breve lo sarà, però il problema è che va bene i soldi, va bene tutto, ma la Cina... Ce l'ha una nazionale, la Brava, Cina. Brava, hai centrato il problema. Mentre la Cina femminile le sue soddisfazioni se le toglie, perché ha partecipato anche alle Olimpiadi di Rio de Janeiro e quindi la squadra dei nazionale femminile di calcio. Esattamente. La squadra maschile è un flop totale. Ora, in questi giorni di qualificazioni mondiali, come vi abbiamo raccontato, prima è riuscita nell'impresa di perdere in campo neutro con la Siria, che chiaramente non è nazionale che proprio in questo momento abbia tutte, no? E ci siamo capiti. Lo spirito, sia dal punto di vista psicologico, che anche di, come farà a allenarsi? La Siria ha battuto la Cina. Ha battuto la Cina. E in più, sempre la Cina, a distanza di pochi giorni, ha perso addirittura con l'Uzbekistan. Quindi, di fatto, il sogno mondiale di Russia 2018 è sempre più lontano. L'allenatore, il CT, è stato esonerato e questo è il grande paradosso del gigante cinese del calcio. È un gigante dai piedi d'argilla, perché è vero che i grandi capitali, i grandi progetti, i grandi sogni di sviluppo, è vero anche il sogno del presidente cinese di portare il calcio in tutte le scuole, in tutte le realtà, ma in questo momento il campionato cinese non ha 11 giocatori in grado di supportare queste ambizioni. Quindi direi che quantomeno gli obiettivi, i traguardi si allontanano, perché perdere anche Russia 2018, adesso chiaramente l'eliminazione non è ancora matematica, ma dopo queste due sconfitte sarà molto difficile tornare in gioco. E allora questo è un paradosso che grazie a questa tribuna, come concordavamo prima, era bene sottolineare, insomma, perché i soldi ci sono, gli imprenditori ci sono, la passione ma gli uomini non ci sono, infatti mancano i piedi, il problema cinese noi abbiamo problemi che con le bacchette, ma loro con i piedi. Grazie Dario Ricci. Grazie a te. Grazie, ciao Dario. Direi che è il momento di aggiornare chi sta viaggiando. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E adesso passiamo allora all'altro tema per il quale l'ospite mi chiama direttamente sul cellulare. A volte succedono queste cose. Comunque sulla pagina Facebook di Effetto Notte continuate con i vostri messaggi anche su questa vicenda che tratterò tra poco della Gran Bretagna. Ilaria scrive: tanto la scontano gli inglesi, politiche cieche e populiste, fino ad oggi si sono avvantaggiati dell'immigrazione che hanno saputo attrarre, e adesso tutti sulle liste di proscrizione. Teresa guai, dice invece Teresa May, che è la premier britannica. Qual è, che cosa succede alla Gran Bretagna? Viene da chiederselo dopo alcuni recenti scivoloni diplomatici, e non solo. Per esempio, qualche giorno fa la prima ministra britannica Theresa May aveva chiesto appunto ai manager britannici di guardare prima i lavoratori inglesi, prima degli stranieri. Quindi la ministra dell'interno aveva proposto di farsi dare delle liste dalle aziende con tutti i nomi degli stranieri che vi lavoravano. Poi si è scoppiata la polemica, il partito laburista, perché sia Theresa May che la ministra dell'interno sono del partito conservatore, il partito laburista ha detto questa è xenofobia, non è accettabile, quindi in quel caso il governo ha fatto un passo indietro. Dopodiché un'altra iniziativa è questa del piuttosto ancora più bislacca iniziativa che riguarda la scuola, ovvero un questionario che alcune scuole della Gran Bretagna hanno inviato alle famiglie dei nuovi alunni per l'anno scolastico, iniziato da circa un mese, e agli italiani hanno mandato questo questionario particolare in cui devono specificare se sono ITA, ovvero italiani, ci sono quattro sigle, oppure ITA con due A, ovvero italiani d'altro tipo, oppure ITAN per dire Italian Napoli, cioè napoletani, oppure si sono ITAS, cioè Italian Siciliani. Quindi quattro tipologie. L'ambasciatore italiano si è fatto sentire, dice: come vi permettete, estremamente discriminatoria questa cosa. E quindi il Ministero degli Esteri ha detto: scusate, c'è stato un errore amministrativo. Finalmente raggiungiamo Leonardo Maisano, corrispondente di Sole 24 Ore da Londra. Ciao Leonardo. Buongiorno, buonasera a tutti. A questo punto viene da chiedersi che cosa succede alla Gran Bretagna. Per caso gli dà un po' alla testa questa Brexit, visto che poi c'era anche stata un'altra iniziativa sui ricercatori stranieri che non possono partecipare a una ricerca? Sì, che la Brexit dia la testa non c'è dubbio. E questa vicenda che hai riferito poco fa, che riguarda le scuole, sia legata alla Brexit e in qualche modo opinabile, nel senso che questo era un questionario che è stato introdotto apparentemente nel 2006, quindi in tempi non sospetti rispetto alla Brexit, e che hanno ritenuto essere un errore, per cui l'hanno cancellato immediatamente. In realtà la cosa non può finire qui, perché anche queste coincidenze sono coincidenze che appunto in un momento di Brexit la Gran Bretagna non si può permettere, per esattamente quelle motivazioni che hai citato poco fa. Cioè, c'è stata una serie di episodi che suggeriscono e che indicano questo atteggiamento, come dire, di provincialismo, di chiusura, di in qualche modo di xenofobia. Questo è un episodio molto più grave, ma relativamente marginale rispetto a quelli che hai citato prima, che sono delle scelte politiche esplicite. Questo sembra essere stato un errore amministrativo che, a mio avviso, più che essere una conseguenza della Brexit, potrebbe essere invece un indizio delle erogioni della Brexit. Cioè, c'è questa abitudine a creare delle forme, come dire, di categorizzazione, di schematizzazione, eccetera, che probabilmente negli anni hanno anche abituato il popolo ad avere un atteggiamento, come dire, di scetticismo o di rifiuto nei confronti di immigrati o comunque di cittadini non britannici. Secondo me è più utile per capire l'atmosfera entro la quale la Brexit è maturata, più che essere un prodotto della Brexit, perché, come abbiamo detto, è stato introdotto prima. Quindi c'era già questa intolleranza già da prima serpeggiava, che poi tu dici è sfociata nella Brexit, questa intolleranza. L'intolleranza è un'abitudine a, come dire, a questa, forse un'abitudine post imperiale o post coloniale, alla schematizzazione e alla volontà di inquadrare i cittadini di altri paesi entro schemi particolari. Va detto che la loro motivazione è, come dire, va nella direzione opposta, cioè loro dicono lo facciamo perché questo ci consente di avere, poi di dare gli insegnanti di sostegno più utili a quei ragazzini che non hanno una preparazione, una conoscenza della lingua inglese. Però qui c'era proprio napoletani e siciliani, non è che gli italiani si diventano italiani, napoletani e siciliani, no, naturalmente Leonardo Maisano, e quindi loro hanno chiesto scuse, hanno detto che è stata una cosa deplorevole, che non succederà più. Leonardo Maisano, ci dobbiamo salutare, ciao Leonardo. Arrivederci. Ciao. Restiamo invece noi in Europa. A parte la Brexit, per il latte e i suoi derivati si va verso l'etichettatura di origine obbligatoria, attesa per il 14 ottobre, il via libera della Commissione europea al decreto italiano. La nuova misura potrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio prossimo. Europa 24 notte. Etichette per il latte e i suoi derivati, etichette che riportino l'indicazione dell'origine di latte, burro o yogurt, dal paese di mungitura al paese di confezionamento al paese di trasformazione. Dal 1 gennaio 2017 per l'Italia potrebbe essere una realtà. Entro il 14 ottobre, infatti, la Commissione europea dovrà decidere se dare il via libera al decreto italiano sull'etichettatura obbligatoria per il latte firmato a fine maggio scorso. Se ci sarà il disco verde, entro metà ottobre l'Italia potrebbe diventare il secondo paese europeo, dopo la Francia, a ottenere una sperimentazione di 2 anni di questa misura, una soluzione caldeggiata da tempo dagli allevatori italiani piegati dalla crisi. Con la fine, 1 anno e mezzo fa, del regime europeo delle quote, i prezzi infatti sono crollati e solo nell'ultimo anno hanno chiuso i battenti 1.500 allevamenti. Secondo Coldiretti, inoltre, la pressione delle importazioni di bassa qualità spacciate come Made in Italy hanno fatto crollare il prezzo alla stalla fino a 0,30 euro al litro, prezzo che non consente nemmeno di garantire l'alimentazione degli animali e che ha spinto l'azienda alla chiusura. Secondo l'ex ministro delle politiche agricole Paolo De Castro e componente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, la Commissione Europea si pronuncerà per un sì. Secondo me, dopo la decisione positiva nei confronti della Francia, è evidente che la Commissione non potrà che dare una decisione positiva anche all'Italia. Il tema sarà in futuro, visto che molti altri paesi sono affacciati con la stessa intenzione della Francia e dell'Italia di dare un'indicazione d'origine al settore lattiero-caseario e anche in altri settori. A questo punto, con l'arrivo di altri 7-8 paesi, il Portogallo, la Polonia, la Lituania e altri paesi, è chiaro che si pone un problema e, a mio avviso, è arrivato il momento che la Commissione Juncker, che il commissario Andriukaitis, metta sul tavolo del Parlamento e del Consiglio una proposta legislativa europea per regolare, così come ha votato anche il Parlamento europeo, il sistema di etichettatura d'origine dei prodotti alimentari. Quindi un'armonizzazione del sistema? Ma sì, perché se si tratta di un'eccezione di 1 o 2 paesi ha un senso, ma nel momento in cui diventano 7 o 8 paesi a livello europeo non si capisce perché non si possa affrontare un testo legislativo uguale per tutti, costruito con il consenso di tutti, che possa dare una maggiore trasparenza e conoscenza da parte del consumatore dell'origine dei prodotti. Questa direzione è stata, ricordo, votata in Parlamento europeo in seduta plenaria a Strasburgo con una larga maggioranza. Quindi oggi c'è una larga consapevolezza e sostegno verso indicazioni in etichetta d'origine dei prodotti, senza confondere i consumatori, senza metterlo per tutti, ma con quell'approccio pragmatico che il Parlamento aveva indicato dei prodotti che hanno, diciamo, una materia prima che caratterizza il prodotto finale. Però ci sono delle resistenze da parte di alcuni paesi a questa trasparenza? Sì, sono resistenze, ci sono aspetti culturali diversi, non c'è dubbio che il sud dell'Europa è più sensibile verso queste tematiche di quanto non sia il nord dell'Europa, più preoccupato dei rischi di concorrenza sleale o di protezionismo, tra virgolette. Ma regolandolo bene, con una norma europea accettata dal WTO e costruita bene, e a mio avviso è una direzione corretta che la Commissione dovrebbe intraprendere e che oramai col voto del Parlamento deve andare in quella direzione. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Ora ci salutiamo, ci aggiorniamo brevemente alle 22.